E con oggi arriviamo all'ultimo appuntamento prenatalizio, prima della pausa di tutte le nostre rubriche della nostra programmazione. Diamo un po' di tregua anche agli ascoltatori e ai consumatori, anche se poi il periodo sarà piuttosto intenso. Ripartiremo alla grande col 7 di gennaio. Siamo in vista del Natale ormai e l'Adico, come ogni anno, ha confrontato alcuni prezzi dei prodotti tipici del Natale. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, confronti fra prezzi, sappiamo che la tendenza è a spendere meno perché i soldi in tasca sono meno, ma l'andamento dei prezzi che voi avete rilevato qual è? Sì, allora amico, come hai accennato, l'Adico ogni anno alla vigilia delle feste di Natale è solita fare delle indagini per verificare un po' l'andamento dei prezzi alla vigilia dei cenone di Natale e del veglione di fine anno, e poi decide anche di fare indagini per verificare un po' le intenzioni delle persone, cosa fare in questi giorni e quante di queste persone decideranno di spostarsi o fare qualche giorno di vacanza. Certamente i dati in questo senso li commenteremo dopo, perché sono sempre più risicati, mentre per quanto riguarda i dati dei prodotti che sono quelli più comuni che troveremo sotto le nostre tavole, è emerso che rispetto al 2012 le offerte più convenienti sostanzialmente si rivela Venezia rispetto alle altre province del Veneto. Diciamo che Venezia è la meno cara dell'11,7% rispetto invece a Belluno, che risulta la più cara rispetto sempre al 2012. Cioè a Venezia i prezzi sono calati rispetto all'anno scorso, a Belluno invece sono aumentati. Diciamo che l'Adico, con il portale Risparmio Super, che è un'associazione che rivela i prezzi e soprattutto dà modo alle persone di indirizzare dove poter risparmiare, ha focalizzato appunto quelle che sono le province e i supermercati oggetto dell'indagine, ed è emerso, come ha detto, che Venezia rispetto all'anno scorso costa di meno per quanto riguarda i prodotti come cotechino, il pandoro e altri prodotti che troviamo, per esempio i torroncini, i cioccolati di ogni genere, i zamponi e quant'altro, e Belluno invece in controtendenza si dimostra la più cara. Confronto dunque impietoso tra montagna e pianura e laguna. Le altre province come vanno? Allora, per quanto riguarda, premesso il capoluogo, appunto Treviso, i prezzi sono diminuiti del 4,9% e seguite da Vicenza 1,6%, mentre il trend si inverte per quanto riguarda Verona più 1,7%, Padova più 4,8%, e come detto Belluno aspetta il record intorno al circa 9%. Questo per quanto riguarda i prodotti tipici. Spese, viaggi per chi ha la possibilità di farli, magari breve, anche se tanti sappiamo hanno dichiarato che passeranno questi pochi giorni di vacanza a casa. Su questo fronte, quello dei viaggi e delle vacanze, cosa avete rilevato? Abbiamo confrontato e inviato questo questionario a circa 1000 persone, di cui abbiamo voluto chiedere cosa decideranno fare e per quale motivo limite non andranno in vacanza, ed è emerso che ben 4 veneti su 5 hanno dichiarato che passeranno tutte le feste a casa e solo il 20% si concederà una vacanza vera. Il motivo all'origine della scelta è quasi sempre il medesimo e la risposta è stata praticamente unanime, ed è l'impossibilità economica di risparmiare e di potersi concedere voli o prenotamenti al ristorante, e qua detto abbiamo 89% su quanti hanno dichiarato appunto che rimarranno a casa. Solo uno su 10 ha dichiarato di rinunciare a viaggiare per Capodanno perché userà il budget accantonato magari per un altro periodo che certamente sarà più conveniente. Ecco, magari in primavera, quando ci saranno altri ponti. E rispetto all'anno scorso, questo settore com'è? Beh, diciamo che rispetto all'anno scorso ormai il trend sta praticamente andando sempre più al basso, perché oggi poter parlare di vacanze o di poter pianificare la famosa settimana bianca, come molte famiglie facevano, sostanzialmente ormai sta diventando sempre più, oserei quasi dire, raro. Poi da ultimo, non è oggetto dell'indagine ma come consiglio in questo periodo, che cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri a tutti, è quello di ricordarsi che tra pochi giorni, tra circa un paio di settimane, inizieranno i saldi, per cui coloro che decideranno anche fare dei regali o non sanno ancora cosa fare perché si trovano all'ultimo momento, per valutare un po' le opzioni anche di buoni acquisto, che possono essere molto comodi ed utilizzati, soprattutto dopo le vacanze, quando potremmo trovare dei prezzi notevolmente scontati rispetto a quelli che sono i prodotti ed essere esposti. E proprio credo dai saldi, ripartiremo come facciamo sempre all'inizio di gennaio, ripartiremo appunto dopo l'Epifania anche con la nostra rubrica, e il gennaio sarà periodo più chiaro anche sul fronte tasse. Adesso la legge di stabilità andrà in approvazione, vedremo di capirci qualcosa appunto quando ci ritroveremo a gennaio. L'occasione dunque per tutta l'Associazione Difesa Consumatori, la Presidenza, i collaboratori, tutti i tecnici, di augurarvi buon Natale, un buon 2014, e ci risentiamo allora dopo l'Epifania. Grazie, io ringrazio la redazione che sicuramente fa un lavoro molto importante, perché ribadisco che le associazioni dei consumatori riescono ad essere efficaci solamente se fanno prevenzioni, e la prevenzione si può fare solo con l'informazione, e colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste agli ascoltatori.